Di riaperture finalmente, concerti, rassegne, Zola Jazz and Wine, con noi un protagonista anche di altri percorsi, Carlo Maver, amico di Radio Città Fugico, buongiorno, bentornato in frequenza, ciao Carlo. Buongiorno Radio Fugico, buongiorno Willy. Allora, si comincia, si riparte? Tutto a posto Carlo, come stai? Bene o male si riparte, nel senso così, c'è una modalità un po' strana, nel senso perché... È tutto un po' a cascata, barra valanga, tutto si muove tutto insieme dopo il fermo pesca che sappiamo, insomma così, e quindi è un po' convulsa la cosa, però insomma si riparte. 20 giugno, quindi la vigilia dell'estate, sarà la serata d'appuntamento a Zola Jazz and Wine con Carlo Maver. Che ascolteremo? Ascolteremo la primissima mondiale di un nuovo progetto, infatti... Prima, quando hai citato i miei strumenti, tipo, non abbiamo parlato del flauto, che in realtà è il mio primo strumento. E questa, diciamo così, è un progetto che si chiama Flute Fever and the Soul Fix, che è praticamente un omaggio, un tributo al flauto, ha, diciamo così, un'ottica, è un panorama un po' infinito, perché diciamo così, già fra la musica soul funk, insomma così, con il flauto è veramente una quantità di materiale infinito su cui lavorare. Il punto di partenza è un po' l'ottica di quello che è stato un flautista molto particolare, Herbie Mann, aveva tutto un sound suo, particolare, e un'ottica proprio, se vuoi, anche un po' commerciale ogni tanto, nel senso che ha scelto veramente dei brani dagli Stones a mille cover, però fatte tutte in un'ottica molto particolare sua, secondo me molto interessante e molto piacevole. Io, come abbiamo parlato altre volte, nel senso in questi ultimi anni, specialmente con il bandoneon, la ricerca sul riverbero, mi sono dedicato tantissimo a progetti molto intimi e introspettivi, tipo diciamo così, e adesso sentivo bisogno di pareggiare un po' la bilancia con qualcosa invece proprio di più leggero e godibile, con proprio il gusto e anche per rinnamorarmi un po' del flauto, che in questi anni qua è stato un po' messo in secondo piano. Ok, allora chissà chi è che ha caldeggiato Herbie Mann, ricordo che mi hai mandato anche, abbiamo avuto uno scambio di chiacchiere per la musica e per le tue ricerche, io sono un grande ammiratore di Herbie Mann tra l'altro, ma per quanto riguarda la location, dove si terrà il concerto per domenica 20 giugno? Allora, si terrà l'azienda vitivinicola Maria Bortolotti, che è a Zola Predosa, che è insomma così un grande produttore di vini, secondo me, con anche lui è, diciamo così, con un'ottica molto particolare, perché ha tutti i vini organici, biologici, e ha tutta una sua linea che ami, odi, tipo, diciamo così, io personalmente amo, e amo anche il personaggio. E niente, sarà un concerto in vigna, allo stile un po' appunto di Zola Jazz and Wine, e ci tenevo a citare anche i miei collaboratori musicisti di quel giorno, che saranno Stefano De Bonis al piano elettrico, Salvatore Lauriola al basso e Andrea Grillini alla batteria. Oh, salutiamo Andrea Grillini, anche lui batterista, già più volte presente concerti al Torrione e altre rassegne, altri cartelloni. Da seguire, imminente, Zola Jazz and Wine. Grazie Carlo, ci vediamo in vigna allora. Io spero che tu ci sarai, quindi. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.